E sono le ore 21 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, inizia prove tecniche di trasmissione, secondo appuntamento di questo ciclo 2020-2021. www.ondarossa.info per quanto concerne la possibilità di collegarsi attraverso lo streaming e ovviamente per leggere le notizie preziosissime contenute nel sito stesso. Indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito della radio comparirà naturalmente questa registrazione. Registrazione di questo programma di oggi, 9 settembre 2020, cosa che accadrà puntualmente su prove tecniche di trasmissione / disorder. Ricordo ancora una volta la possibilità di aderire alla campagna di crowdfunding riguardante il nostro radio abbonamento per 30 euro annuali, con diversi modi di attuazione di tale intendimento. Saluto Antonio Zoviet in quel di Firenze come omicidio, Roger Kemper della Formaldehyde Records da Barletta, Daniele Santa Giuliana Test in Volt da Vicenza, dalle Dolomiti, dalle parti di Cortina d'Ampezzo, Tabula Rasa, Nicola Locci dalla Sardegna, Nicola Locci anche lui ottimo musicista come Stigmate e Hexagonal. Altra esperienza industrial, il medico della peste qui a Roma, Nadir Persegona di Os, che ascolteremo questa sera, Flavio Derbecante di Noise Cluster, Gennaro D'Elena di Eastern Lake, progetto gothic napoletano, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Antonio Zoviet, lo abbiamo nominato e a lui spetta aprire l'odierna puntata di prove tecniche di trasmissione. Ecco qua, abbiamo sistemato le ultime cose. Dicevo, omicidio con prospettive di un omicidio che inizialmente doveva uscire con un nome diverso rispetto al nome ben più noto di Antonio Zoviet. E il motivo principale è che le sonorità sono assai diverse dall'industrial noise che tutti noi conosciamo. Quindi un lavoro che si sviluppa tra electrowave, ambient, insomma una dimensione alquanto particolare per omicidio. A testimonianza di ciò ci andremo ad ascoltare Un cielo rosso e Uno sguardo alla solitudine. Le inusuali increspature ambient per quanto riguarda omicidio, queste prospettive di un omicidio. Armonie quasi volatili in sospensione che ci ha donato Antonio Zovet, che in qualche modo ci ha spiazzato. Sentite poi la estrema versatilità, già che è partita questa traccia invece dall'andamento decisamente più elettronico. Cielo rosso e uno sguardo alla solitudine per quanto riguarda questa sera. Una buona sera a Like Awake qui a Roma, lo ricordo, in concerto insieme a Noise Cluster venerdì prossimo al Klang. Da Bergamo, Francesco Cornello. Arianna Degni Lombardo, proprio di Noise Cluster, che salutiamo. Quest'estate, ma non soltanto quest'estate, due etichette sono state, lo sono tuttora, protagoniste della scena industrial nel senso ampio. Luce Sia, etichetta svizzera, e la Hellbones Records, proprio qui di Roma. Ed è lei che ci rivolgiamo con questo lavoro, questo split tra Wear and Tear e Petrolio Yuko Araki, quindi un lavoro concepito, diciamo, a tre menti, un lavoro che si chiama Omen. 300 32 019, è abbastanza vario come lo sono gli artisti in questione. Cominciamo proprio con Wear and Tear di Davide Bacci, con il brano che apre l'intero lavoro e che si chiama Astral Void in the Black Cave. New Entry qui a prove tecniche di trasmissione, Wear and Tear di Davide Bacci, che partecipa insieme a Petrolio e Yuko Araki in questo lavoro dal nome Omen 300 32019, un codice misteriosissimo ovviamente. Per la Hellbones Record, una label indipendente qui di Roma, del buon Daniele. Synth quasi da krautrock, ma soprattutto un piano incalzante ed ossessivo che dà la traccia e il ritmo a tutto questo brano di 11 minuti di Wear and Tear. Brano dal nome Astral Void in the Black Cave, questo è quello successivo che più o meno si muove nelle medesime atmosfere. Buonasera anche a Fulvio Biondo di Solar Lodge, anche lui ormai vecchia conoscenza di prove tecniche di trasmissione, come lo è Raffaele Pezzella. Ovviamente non ha bisogno di presentazione, agitatore culturale della Anespe Sounds label e group, alle prese con l'ennesima compilation, questa volta riguardante la interessantissima realtà balcanica, infatti si chiama Balkan Region Music Survey, Anthology of Post-Industrial Music from Balkan Region, chiarissimo l'intento. Quindi una serie di artisti per lo più sconosciuti, anche se in passato sono passati da queste parti. Cominciamo con Cosmos, con questa Levitate, e poi ci ascolteremo My Trip, un vero viaggio, con Slit My Own Throat. Ecco My Trip. Intanto saluto Gianluca Becuzzi, del quale segnalo In Between, un interessantissimo lavoro che presto ascolteremo. Sebastian qui a Roma e Lucia Cagliazzi in Arte Lupsi in quel di Udine. My Trip slit my whole throat. ancora due gemme preziose estratte da questa antologia riguardante la scena cosiddetta post-industriale dei Balcani, quindi artisti provenienti da Grecia, Romania, Turchia, Serbia, Bulgaria, Albania, Slovenia e Macedonia. Salutiamo Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Leggo che ha collaborato con Dario Righi e Sara K.O. Fontana, che saluto insieme a Cristiano, all'ascolto tutti e tre. Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta, Massimo Olla, che sentiremo a breve, dalla Sardegna. Il Death Ambient, anche abbastanza grezzo per certi aspetti, di Chaosmos Levitate, e invece il più rarefatto Slit My Own Throat di My Trip. Ancora una volta dal cilindro magico di Raffaele Pezzella esce un ottimo compendio. Come ho detto a inizio trasmissione, anche Luce Sia è protagonista assoluta in questo 2020, e quindi adesso andiamo proprio ad ascoltarci un qualcosa dal suo fondatore Sasha Rovelli da Bellinzona, con il suo progetto più noto dal nome Icedon. Ha ristampato Rituals Obsession dopo molti anni, credo 8 anni, e l'ha ristampato arricchendolo di una traccia. Le tracce principali comunque sono due: The Cursor, Recurrent Mind Proceeding, appunto la prima e la seconda parte, entrambi molto molto lunghe. Cominciamo ad ascoltare un estratto dalla seconda parte di suddetta traccia, da Rituals of Obsession. Thank you. chiama The Curse of Recurrent Mind, Proceedings Parte 2, abbastanza diversa dalla prima parte che ci siamo ascoltati nel recente passato, più ritualistico sacrale. Qui invece ci si perde in queste spirali. I rumori così urticanti. Sasha Rovelli in questo Rituals of Obsessions uscì nel 2012 con una Show Me Your Wounds, peraltro il tutto registrato in un festival dove c'ero anch'io, al Villa Festival in Magione in Umbria. Nel 2012 si svolgeva in una bellissima villa quasi in riva al lago Trasimeno. Si è tenuto per 3 edizioni, se non erro, con ottimi artisti, compreso Icedon. Dunque, album ristampato nel 2020 da Luce Sia. Ancora Luce Sia, ma andiamo da Massimo Olla, che si autocostruisce strumenti e suoni e lo fa anche in questo Life in Sonic Freeform Research Experience, con la supervisione dello stesso Gianluca Becuzzi. 8 brani tra clanglori metallici e lugubri atmosfere magnetiche. E ci ascoltiamo il 7° e l'8° movimento, già che poi ogni traccia è priva di nome, mentre soltanto gli strumenti, diciamo, che vengono suonati o percossi dallo stesso Massimo Olla. Thank you. Ancora una volta. Ancora una volta la Sardegna si conferma terra alquanto creativa dal punto di vista del rumorismo industriale. Anche Massimo Olla con Life in a Sonic Freeform Research Experience. Conferma tale mia considerazione un album che esce per l'appunto per la Svizzera Lucesia. Ferro, elettricità e ribollio di suoni, rumori siderurgici. Vado a salutare Mara Lepore, credo una new entry per quanto riguarda prove tecniche di trasmissione.